come son messo. Sempre pronto al decollo, essere un parte fa lo stesso. Anni sognando un successo che è fatto d'aria in Italia. Il rap fallisce come l'Alitalia. Ho crisi mistiche, sarà perché bestemmio. Non distingo Cristo, Buddha, Dio, Madonna e da Maometto. Ho crisi liriche, non so più cosa scrivere, perché sta gente mi complessa a dirmi cosa è meglio. Io sono un rogno e ho fatto cose più schifose anche del ciuffo di Malgioglio. Ho sempre fatto ciò che voglio, anche se non andava fatta, anche se lei c'aveva il ciclo e io la felpa super bianca. Cazzo, non mi hai detto di levarla? Ora come gliela do a mia mamma? Sono insane, ho cuccicato a picco, vado a scuola da un tot e chissà se finisco. Registro finché ogni mio neurone non parte, me la rischio e no lean. Dai cucci, dai le carte. Insane, sessionale. Lasciami circolare, il testo molto circolare, non smette di cigolare. Ho una vita irregolare ed è per ciò che oramai sto coi matti, non quel matti che fa musica da guy. Vado in bagno irregolare grazie a questi MC, ma grazie a loro adesso mi scendo la mesulit. Ho mal di testa, è per ciò che alle volte sono strano. Pensi è fatto, ma in quello non c'è niente di strano. Sono strano io, strano tu, strani tutti. Sono tutti ok, tutti cool, tutti furbi. Io non ho un amico come me, come disse Pac, quindi non conto su di te se me ne servirà. E resto solo col mio sound, mentre qui a Cagliari Town cerco solo un dottor House che mi curerà. Insane, insane.